Grazie, per la prima volta il Tour de France, parliamo di ciclismo, è partito dall'Italia, da Firenze, che atmosfera si respira, in diretta lo cerchiamo e lo chiediamo a Stefano Rizzato. E ancora questi attacchi, c'è anche Ryan Gibbons con la maglia di campione sudafricano per la Lidl Trek. E siamo con la prima frazione, anche adesso in diretta con il TG2, per la prima frazione del Tour de France. È partita per la prima volta la Grand Boucle dall'Italia, dalla culla del Rinascimento, da Firenze. Quello che vedete inquadrato è il campione uscente, Jonas Vingegaard, con un piccolo problema tecnico, una frazione lunga, 205 km per arrivare fino a Rimini, con un percorso affascinante da grande classica. È stato molto emozionante quello che abbiamo visto in questa prima parte di Tour de France, soprattutto per la bellezza che ha circondato i corridori nel passaggio da Firenze. Il via è stato dato da Bagno a Rivoli e adesso inizia davvero davvero il bello Tour de France, tutto giocato sul dualismo tra Vingegaard e Pogacar, da non perdere.